Cantine di Franciacorta. Benvenuti, oggi torniamo ad Adro, ospiti di Villa Crespia Muratori, azienda diretta da Bruno Muratori da 500.000 bottiglie l'anno. La famiglia Muratori arriva dal tessile, ma il cuore ormai nel vino. 10 anni di attività, già un premio importante, miglior vino emergente 2010, un riserva. E vigne in zone diverse della Franciacorta per vini diversi. Gli inizi degli anni 90 si è proceduto con il consorzio di Franciacorta a una zonazione della Franciacorta, individuando 6 territori che si chiamano unità vocazionali, diversi gli uni dagli altri. E in questi 6 territori noi abbiamo voluto, ligi al concetto di territorialità, avere dei vigneti in modo da produrre da ognuna di queste unità vocazionali una tipologia di Franciacorta che è diversa dall'altra. Alla prossima tappa, sempre in Franciacorta. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.